Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dopo la Momo Challenge, dopo la Blue Whale Challenge, dopo Samara Challenge, ora abbiamo Jonathan Galindo. Questo tizio con la faccia di Pippo sotto acidi, dopo che ha passato un anno in clinica di riabilitazione, sarebbe la persona che dobbiamo evitare quest'anno. La figura che sta spargendo il panico in tutto quanto Sud America, in Spagna, e a poco sta arrivando anche da noi in Italia. Le notizie sono ovunque. Se non avete mai sentito parlare è perché è proprio nuova questa notizia. È degli ultimi giorni, era partito appunto tutto quanto dalla Sud America, dove questa figura, che si fa chiamare Jonathan Galindo, che sì, è Pippo della Disney, però che è finito male, contatterebbe le persone attraverso TikTok, attraverso Twitter, attraverso Instagram, attraverso Facebook, e se gli rispondi ai messaggi, si dice che in qualche maniera riesca ad accedere ai tuoi dati privati e sotto minaccia ti porti a svolgere 50 sfide, e dopo 50 sfide ti porterebbe a compiere l'atto estremo, ossia toglierti la vita. A parlare è Gianmarco Zagato, che è uno youtuber, una web star, ha un suo profilo su YouTube che mi sembra abbia 1 milione di iscritti, parla un po' di vari fenomeni della contemporaneità e si è dedicato in questi ultimi giorni a fare una analisi abbastanza accurata e storica su Jonathan Galindo. Chi è Jonathan Galindo? Guardate nella pagina web di Radio 24, nella diretta video in questo momento, Alessandro Chiappini, che mi mette in onda da Roma, ha come sfondo Jonathan Galindo. È Pippo, una maschera di Pippo con l'aria un po' sballata, nulla di originale. Il nostro Andrea Pazienza, già a metà degli anni 70 su Frigidaire, faceva una serie di fumetti in cui si domandava perché Pippo sembra uno sballato. C'era Pippo che fungeva dalla Disney, si faceva dalla mattina alla sera. Pippo è un personaggio abbastanza eclettico per mostrare la dissennatezza, la follia. Jonathan Galindo in realtà è qualcosa che rientra nei tanti miti del web, in quelle figure che istigherebbero attraverso delle sfide sui social, le challenge, una deleteria forma di autodistruzione nelle persone più deboli, soprattutto i minorenni. Perché riparliamo di Jonathan Galindo? Perché la foto di questo Pippo sballato è sulle pagine di tutti i giornali oggi, come corollario di un episodio di quelli di cui la cronaca per vecchia scuola non dovrebbe parlare, l'accenno soltanto, senza entrare in particolari. Un bambino di 11 anni si è suicidato, si è buttato dal 10° piano del suo palazzo, ha mandato un messaggino alla madre prima di morire. Dal contenuto cambiato notevolmente a distanza di solo 2 giorni, prima ha detto devo uccidermi per colpa dell'uomo nero, poi per colpa dell'uomo col cappuccio, dell'uomo incappucciato. L'uomo incappucciato per molti è associabile a appunto Jonathan Galindo. Perché? Perché questo Jonathan Galindo, come ci spiega ancora il nostro youtuber Gianmarco Zagato, è legato a una serie di ipotetici crimini di istigazione al suicidio di minorenni. Continuo a cercare informazioni su forum, su notiziari, e tutto quello che trovo sono queste foto. Foto su foto su foto, brutte, ma sono foto. E poi trovo finalmente un video. Hello? Hello, fucker. Yes, me. This is Larry. Oh, yeah, here you are. Fuck that fucker. Questo è uno dei video più inquietanti che abbia mai visto in vita mia. Comincio a provare a contattare questi Jonathan Galindo su Facebook, su Twitter, su TikTok, ovunque, e non ricevo mai risposta. Tutto quello che mi ritrovo è account disabilitato, account eliminato. Vi termino quella che è il racconto appunto di Gianmarco Zagato, l'abbiamo anche cercato questa mattina, lo abbiamo trovato, ma lui ha messo su YouTube tutta la sua ricerca di questo Jonathan Galindo, di cui molto si parla e a cui si attribuiscono appunto dei giochi terribili, delle sfide fra ragazzini che porterebbero alla fine di una serie di prove al suicidio. Sammy è un produttore di SFX. Se non sapete cosa sono gli SFX, sono letteralmente gli effetti speciali che si usano specialmente al cinema, che consiste nel creare protesi in silicone specialmente per il viso. Mi dico, vuoi vedere che è proprio lui che ha creato questa maschera? Vuoi vedere che è lui Jonathan Galindo? Cosa ne pensi di tutta questa storia? Pensi che sia solamente un meme di internet? Che ci sia veramente qualcosa di inquietante dietro? Sono al corrente di tutto quello che sta succedendo con questa storia di Jonathan Galindo. Le foto e i video sono miei e sono state scattate nel 2012 e nel 2013. È stato uno dei miei primi tentativi a effetti speciali con il make-up. E non dirò bugie, lo avevo fatto per prendere in giro le persone. Erano solamente per mio gusto personale. Assolutamente però non era mia intenzione spaventare qualcuno. Diciamo che la ricerca dello youtuber Gianmarco Zagato porterebbe a un produttore di maschere fantastiche e terrorizzanti, che fa parte comunque della necessaria oggettistica che poi permette di fare film, di insomma una forma espressiva, è una forma d'arte, che avrebbe creato una decina d'anni fa questo Jonathan Galindo, questo pippo con la faccia un po' sballata, fine, poi l'ha messo in rete, ha visto che effetto faceva. Da lì è nata una sorta di leggendaria storia che dietro questa faccia di pippo ci sia un gioco perverso. Ecco, oggi cercheremo di capire un po' meglio come nascono queste storie, quali sono, almeno alla luce delle evidenze, la loro reale pericolosità, e ci domanderemo anche perché su un fatto così delicato, così intimo, così terrificante come il suicidio di un bambino sia così facile poi attaccare una risposta, una soluzione, una interpretazione che dal mio punto di vista è lievemente fuori tema. Si poteva anche fare a meno di dire che si è suicidato per Jonathan Galindo, perché quando una persona prende questa decisione, soprattutto se è un bambino molto piccolo, è molto difficile parlarne e molto rischioso parlarne. Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto do il numero, ricordo il numero ai miei ascoltatori, 800240024. Vorrei sapere se siete stati mai lambiti, toccati, avete mai avuto il sospetto che esistano poi questi filoni noir leggendari nei social che tendano a portare minorenni o persone molto deboli verso decisioni terrificanti e autodistruttive. Massimo Polidoro, che è un giornalista, uno scrittore, è un divulgatore scientifico, è segretario nazionale e cofondatore del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Proprio in questi giorni c'è il CICAP Fest a Padova, dove si parla anche di questi temi, cioè delle interpretazioni fantasiose di fenomeni scientifici. Lo sapesse Polidoro, si è mai interrogato, ha fatto qualche ricerca su questi miti social e in particolare su Jonathan Galindo? Sì, me ne sono occupato qualche tempo fa, anche io avevo realizzato un video proprio su YouTube per raccontare un po' questa storia e un po' in generale come nascono queste storie horror, chiamiamole pure così, o meglio, il termine giusto sarebbe quello di creepypasta, no? Che sono queste storie di paura che nascono sul web e che si diffondono soprattutto tra i ragazzi, ma che in realtà poi hanno un effetto così piuttosto limitato in realtà sulla suggestione dei ragazzi, mentre hanno. Quindi possiamo dire, scusa Massimo, che è una trasposizione, sì, sul piano della condivisione social, ma delle antiche favole, gli spauracchi che si raccontano fra bambini, sì, dell'uomo nero che era sempre presente in tutte le minacce dei nostri genitori. Oggi gli uomini neri diventano, diciamo, delle narrazioni web, girano fra i ragazzini, uno di questi è appunto Jonathan Galindo. Esatto, e come abbiamo visto parte proprio prendendo magari un'immagine trovata sul web, in questo caso è proprio un artista del make-up che aveva creato questo personaggio, sicuramente un po' inquietante, sicuramente non simpatico, ma che si presta bene a trasformarlo in un mostro inquietante. Poi ci sono quelli che chiaramente ne approfittano per imitare il personaggio, che si travestono allo stesso modo e magari fanno scherzi ad amici e quindi li riprendono col telefonino, ed ecco che si diffonde l'idea che questo personaggio sia reale. Tu ricorderai che un paio di mesi fa, prima del lockdown, c'era la riapparizione di Samara, la bambina affogata, certo, e resuscitata di The Ring. Erano ste ragazzine, si mettevano coi capelli bagnati, con la vestaglia bianca, poi in certi paesini a certe latitudini, sì, si prendevano anche calci nel sedere e bastonate se non stavano attenti. Eh sì, il rischio poi è quello, lo scherzo poi sfugge di mano e non tutti. Ecco, non poi tutti dal punto di vista, visto che tu studi le evidenze, ci sono conseguenze reali, concrete, accertate di casi di omicidio, di suicidio, di fatti gravi legati a questo fenomeno appunto dei creepypasta? No, in realtà c'è stato un episodio qualche anno fa, se ne è parlato anche molto da noi, quello del blue whale, della balena blu, diciamo così, che prendendo a riferimento allo spiaggiamento. Ricordi un attimo, ricordi lo scenario, sì, perché non è detto che tutti lo sappiano. Esatto. Qui siamo 2-3 anni fa. Aveva iniziato a girare su Facebook come sempre, ma poi era stata ripresa anche in televisione, ricordo Le Iene per esempio, ne avevano parlato, la storia secondo cui c'era un altro gioco simile in cui si invitavano i ragazzi a fare delle sfide sempre più estreme fino a togliersi la vita, insomma la stessa identica storia che gira con Galindo. E allora si era diffusa l'idea che ci fossero stati tantissimi suicidi in Russia in particolare, e adesso stava arrivando anche in Italia. Quello che succede nella realtà è che quando uno va a verificare, a indagare, magari scopre che alcuni ragazzi si possono essere suicidati, ma questo bollino della balena blu o di qualunque altra storia gli si voglia attaccare addosso viene sempre messo a posteriori e non c'è nessuna evidenza che sia stato a causa di questo gioco che le persone, i ragazzi, si tolgono la vita. Diciamo che spesso è suggestivo e comodo oggi mettere nelle pagine giornali Jonathan Galindo e associarlo a un'incertezza totale. Già in sé l'episodio irraccontabile, cronaca, rientra nei margini della difficoltà di descriverlo e raccontarlo in tutte le sue fattispecie, accezioni, ma è molto facile e semplificato oggi far vedere Jonathan Galindo e dire: vedi, Jonathan Galindo è responsabile di questo bambino, del suicidio di questo bambino. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Mauro Manca, ricordo, psicologa clinica, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Abbiamo spesso parlato con Maura di tutte le leggende legate ai mostri dei social nel passato. Dammi subito il tuo giudizio, Maura, rispetto all'associazione che fanno questa mattina tantissimi tra Jonathan Galindo e un episodio che in sé trovo insondabile, o perlomeno non semplificabile in una cronaca. Io non condivido assolutamente quello che stanno facendo in questi giorni i giornali, perché stanno trattando male sia l'uno che l'altro argomento, creando una sorta di confusione, perché non esiste un nesso di causalità diretta, non c'è nessuna prova, per cui gli inquirenti stanno indagando ancora a 360 gradi sul suicidio di questo ragazzino, che è un gesto estremo, è un gesto di cui secondo me bisogna anche parlare di suicidio. Sai come la penso, ci ho scritto un libro sull'autolesionismo fino a gesti più estremi, ma farlo in maniera appropriata per evitare di terrorizzare i genitori. A me ieri mi hanno scritto proprio genitori che sono vicini alla cerchia del bambino che purtroppo è del ragazzino che si è suicidato, dicendomi che mi seguono appunto da tanti anni, volevano capire se magari anche loro possono non essersi accorti dei problemi del figlio e se anche i loro figli possano suicidarsi. Ecco, questo è l'effetto che con l'informazione noi non dobbiamo avere, di terrorizzare, ma semplicemente di usarla e di far capire le cose come stanno. Jonathan Galindo, non capisco da dove se lo siano tirato fuori, proprio poi Jonathan Galindo nello specifico, anche perché poi uomo nero non ha assolutamente. Ma hai notato, scusa Maura, che il primo giorno si parlava di uomo nero, poi l'uomo incappucciato. Da un giorno all'altro la frase è diventata uomo incappucciato per farlo corrispondere meglio all'immagine di Jonathan Galindo che ha delle trecce e un cappuccio in testa. Ti devo però chiedere di fermarti un istante perché devo lasciare la linea. Intanto do il numero 800240024. Con Mauro Manca seguiremo questa deriva dell'interpretazione. Temete anche voi in questi giorni che arrivi Jonathan Galindo a portarvi via il vostro bambino? È questa la maniera per trattare l'episodio grave del suicidio di un minorenne? Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Melog. 800240024, stiamo parlando di alcuni episodi, nella maggior parte leggendari, che nascono in rete, soprattutto nei social, che crescono, che si alimentano, che diventano realtà quando vengono associati a fatti di cronaca luttuosi o difficili da interpretare come quello del suicidio di un bambino. Ne stiamo parlando con Mauro Manca, psicologo clinico e psicoterapeuta, e con Massimo Polidoro che è, diciamo, cofondatore e segretario nazionale del CICAP, che è il Comitato Italiano al Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Siccome Polidoro sta seguendo il festival annuale CICA Cristiana Padova, lo faccio una domanda subito a lui così lo posso liberare. Massimo, riesci a descriverci in maniera semplice il meccanismo per cui attecchisca questa forma di narrazione terrificante contemporanea e assuma dei caratteri vicini alla realtà quando poi si contamina con le cronache, con il quotidiano racconto dei fatti reali che avvengono? Perché è un po' singolare, sembra quasi, ti ricordi le vecchie antiche leggende metropolitane? Capitava ancora in epoca analogica pre-internet che ogni tanto qualche piccolo giornale di paese, ma nemmeno, anche grossi giornali, mettessero la notizia: piovono serpenti, hanno trovato gli alligatori dentro le fogne e cose del genere. Chi sapeva benissimo, una delle tante che viene continuamente ripresa è la rissa durante il pranzo di nozze, che i parenti dello sposo e la sposa fanno a botte perché trova la sposa, alternativamente lo sposo al gabinetto con i testimoni, con le testimoni, con il prete e via dicendo. Ogni tanto qualcuno ci ricade e riesce questa notizia. Ecco perché storie come quella di Jonathan Galindo immancabilmente riappaiono sui giornali e vengono associate a eventi così tristi e così difficili da raccontare. Beh, il meccanismo non è tanto diverso da quello che vediamo relativamente alle cosiddette teorie della cospirazione, nel senso che ci troviamo di fronte a fenomeni, ad accadimenti, ad eventi spesso drammatici, spesso che ci lasciano sconcertati, per i quali è difficile trovare su due piedi una spiegazione razionale, come può essere appunto un caso come quello di cui stiamo parlando. E allora molto spesso per tante persone può essere quasi un sollievo trovare una risposta, un colpevole da identificare, no? È molto più difficile analizzare una situazione anche personale o comunque relativamente al fatto accaduto e accettare che possano accadere certe cose. Più rassicurante è individuare il capro espiatorio, il colpevole, in questo caso il web, in questo caso queste storie dell'orrore, e per tante persone è comprensibile che sia così, purtroppo non aiuta a capire e ad affrontare realmente il problema. Ti ringrazio Massimo Polidoro e torniamo allora a Mauro Manca. Polidoro ha detto molto semplicemente: è facile dare delle soluzioni appiccicandoci vicino il personaggio fantasioso che appare e scompare in rete. Tu qualche domanda però te la sei fatta, forse a livello più approfondito, visto che in questi giorni ti chiamano i genitori spaventati dicendo: non è che Jonathan Galindo adesso contatterà anche mio figlio e si suiciderà anche lui. Vediamo se riusciamo a rendere comprensibilmente un po' più articolato questo dibattito sul fatto mostro in rete equivale a suicidio, equivale a gesto criminoso. È facile a volte dare la colpa, capisco anche molti genitori che abbiano bisogno di cercare in tanti casi un responsabile, perché Quando poi invece la responsabilità è un po' più ampia e coinvolge anche tanti aspetti dell'educazione e della struttura di personalità, il processo psichico del figlio è più complesso da affrontare, e io questo lo posso anche comprendere. Però quello che si deve, cioè, vuol dire capire... Maura, se io genitore mi metto io in primo piano, così non getto la croce su nessuno. Penso, immagino che ci sia un Jonathan Galindo, una Lena Blu, una bambina affogata nel pozzo, che semina sconcerto e depravazione in rete. Tutto sommato mi metto da parte e mi assolvo della mia mancanza di attenzione, delle mie responsabilità, una cosa del genere. A volte aiuta a pensare che la colpa sia della rete in generale, non è tanto poi, perché poi è ciclico, ciclicamente c'è una creatura della rete, del web, diversa, ciclicamente ce la prendiamo con qualcuno, è come quando ce la prendiamo col videogiochi perché il bambino picchia l'altra persona e perché il bambino è violento, il meccanismo di responsabilizzazione. Beh, diciamo di fondo... che il tuo insigne collega Crepè, in un articolo di qualche giorno fa che ha fatto molto discutere, parlava dell'episodio dei fratelli bianchi e dell'uccisione di quel ragazzo, dell'assassinio di una coppia di fidanzati, e ritirava fuori la storia dei videogiochi sanguinosi come, diciamo, possibile concausa. Ritornando sempre al punto di partenza, però. Non è così, poi, fondamentalmente. Bisogna dire una cosa, che l'attrazione nei confronti di queste creature un po' horror, che fanno paura, un po' particolari, è normale ed è naturale, perché anche un po' confrontarci con le nostre paure, quei lati oscuri, è sempre esistito, erano i mezzi diversi. Per cui la domanda è: come mai io soddisfo la mia curiosità di affrontare la mia paura, vedere quanto paura... quanto sono coraggioso, e poi invece di vivermi quell'adrenalina, perché tutti noi cercavamo un po' l'immagine che ci faceva paura per l'adrenalina che ci dava, io rimango incastrato in quel meccanismo perché inizio a parlare con una persona e mi faccio condizionare mentalmente da quella persona, tale che quella persona diventa un burattinaio e io il suo burattino. E questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare. Noi non ci dobbiamo dire colpa di un gioco, è colpa del fatto di della condizionabilità di troppi ragazzi che poi rimangono incastrati, però in un meccanismo perverso, perché dietro un Jonathan Galindo, una Samara, qualcuno, c'è una persona. Non è l'immagine, non è il gioco, è quello che viene attivato dal gioco. È inutile che qui continuiamo a dare la colpa a una situazione, quando invece è un processo e quando invece è un meccanismo. Perché se noi capiamo la persuasione che c'è dietro, perché sono giochi che iniziano con azioni moralmente discutibili e quindi attraggono i ragazzini, attraggono gli adolescenti. Ecco, tu diciamo, hai fatto una tua indagine, naturalmente nei limiti che può farla una psicologa clinica, non sei un investigatore, di capire quali sono i margini in cui in realtà i ragazzi che tu hai conosciuto, hai analizzato, hai visto, giocano con questo tipo di realtà, fino a dove arrivano, dove si spingono. Le sfide sui social si vedono, bere fino a vomitare, fare cose assurde, stendersi sui binari del treno, tutte cose certificate e visibili. Ma il punto che va oltre, quello che può portare veramente a un atto di totale autodistruzione, ecco, tu l'hai visto, l'hai toccato, puoi testimoniarlo? Sì, soprattutto con ragazzi che però erano particolarmente fragili da un punto di vista emotivo, che avevano anche dei vissuti depressivi latenti, significa che agli occhi di un non clinico è difficile vederli e riconoscerli, perché tante volte ci fermiamo all'analisi superficiale dei comportamenti di un figlio. Erano ragazzi che però facevano anche altre attività, che ricercavano con frequenza questo tipo di informazioni, perché noi forse non ci rendiamo conto che di manipolatori mentali, per esempio blog che istigano anche all'anoressia, che istigano all'autolesionismo, che istigano a fare qualsiasi azione discutibile da un punto di vista morale, è pieno. E tutti questi ragazzi che sono rimasti incastrati in queste situazioni non l'hanno fatto per una sfida, ribadisco, per ricercare l'adrenalina, perché lì a un certo momento ti fermi, perché c'è la vita, perché non vai oltre, ma anzi addirittura in quel momento tu metti un freno. Significa ti lancio una provocazione, Maura. A questa trasmissione non sta telefonando nessuno. Stiamo parlando di un fatto che ha appassionato le cronache, stiamo toccando ciò che c'è di più forte nello scaturire i sentimenti tipici della compassione, della pietà, della tenerezza, un bambino che si suicida, ma nessuno chiama, nessuno telefona, come se fosse un problema che non riguarda le persone che normalmente amano partecipare a questo programma. Questo mi fa riflettere, ci fermiamo ancora un istante. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Melog 800240024. Oggi parliamo degli incubi fantastici che emergono dai social, personaggi che rapirebbero i bambini o li indurrebbero a forme di lesionismo, di suicidio, che poi quando vai a stringere è molto difficile trovare un nesso, individuare realmente quale personaggio di questa galleria di fantastici, ma anche divertenti personaggi horror. L'horror è una forma della narrativa. Pensate quanto c'è di orribile in Pollicino che fa sgozzare le figlie all'orchestra, qualcosa che da piccolo io non potevo tollerare. Dico, ma guarda tu che stronzo Pollicino, capisco salvarsi, perché fare sgozzare le bambine figlie dell'orchestra? Eppure siamo cresciuti con Pollicino che è bravo, che è un eroe, perché fa sgozzare le figlie dell'orchestra. Ecco, non per questo ci siamo suicidati, abbiamo ucciso, abbiamo istigato gli altri a fare azioni deleterie. Ecco, noi stiamo con Mauro Manca cercando di capire cosa sia dietro a questi fenomeni. Dietro questi fenomeni molte volte c'è uno scansare l'attenzione dei genitori su alcuni comportamenti dei figli. Maura, forse per la prima volta, ha parlato con grande determinatezza e crudezza dell'autolesionismo, fenomeno di cui non si parla, nelle scuole non si parla, si parla di tutto, ma non si parla dei ragazzi che abitualmente con grande frequenza si tagliano, si bucano, si provocano lesioni. E i genitori, pur vedendo il figlio coperto di tagli, di buchi, di punture, di bruciature, fanno finta di niente. Un genitore che non si accorge del figlio autolesionista, Mauro Manca, perché dovrebbe scervellarsi a trovare il filo con Jonathan Galindo tra i comportamenti del figlio e la cattiva rete? Sono tutti aspetti che fanno molta paura. Io in questi momenti sto leggendo anche tutti i commenti e sono genitori terrorizzati, perché la paura più grande per un genitore è che il figlio possa suicidarsi o rimanere incastrato in queste situazioni. È un meccanismo comprensibile clinicamente, a volte è l'allontanamento di questi pensieri che ci fanno paura. È come quando dobbiamo magari scrivere il nostro testamento e rimandiamo perché poi abbiamo paura, certo, che possano accadere le cose più gravi. È la stessa forma. Io dico sempre, però, dobbiamo anche affrontarle queste paure e non avere timore di guardare in faccia la realtà. Perché ribadisco, tanti ragazzi per esempio tentano il suicidio e molti genitori non se ne accorgono. Mi è capitato centinaia di volte in questi 20 anni di lavoro con loro che abbiano provato ad uccidersi e il genitore non lo sapeva, e il genitore pensava fosse un'intossicazione alimentare o pensava fosse altre condizioni. Perché? Perché il pensiero della morte, questa parte oscura, parte nera, molti ragazzi ce l'hanno dentro. Ecco perché dico attenzione prima di attribuire a sempre alla rete e trovare questo capro espiatorio, perché ci sono tanti ragazzi che hanno dei vuoti interiori e dei buchi interni che purtroppo si ha paura di vedere, ma che invece bisogna iniziare a guardarli, perché è una generazione molto fragile da tanti punti di vista. Sembrano adulti, sembrano grandi, ma io mi sto rendendo conto in questi ultimi anni che sono veramente fragili. È come se avessero pochi strumenti per affrontare anche tutto questo. E a volte la aspetta, Mara, siamo riusciti finalmente, ci ha cercato lui, forse ci ha sentito, a recuperare Gianmarco Zagato, che è lo youtuber che ha fatto la ricerca più approfondita su Jonathan Galindo. Sentiamo se ci conferma quello che avevamo già raccolto dai suoi messaggi in rete. Gianmarco Zagato, buongiorno. Buongiorno. Senti, abbiamo già fatto ascoltare quello che hai detto su YouTube, però vorrei un'integrazione proprio riguardo a quest'ultimo fatto di cronaca. Tu trovi che l'accostamento con questo personaggio, che hai abbastanza depotenziato te facendo la tua ricerca dal suo aspetto misterioso, non c'è niente di misterioso, è un artista che ha creato questo personaggio qualche anno fa, l'ha messo in rete, ci ha giocato un po' per non se ne è più occupato, probabilmente qualcuno poi lo ha ripreso e ne fa un altro uso. Ma l'accostamento così diretto a fatti di cronaca, dal tuo osservatorio, da quello che tu puoi vedere e capire, visto che sei molto in rete, ecco, quale può essere la giusta misura per tirarlo in ballo su episodi del genere? Allora, il problema secondo me fondamentale è che ho notato nel corso degli anni che più e più volte esiste un fenomeno come quello di Jonathan Galindo. C'è stata la Momo Challenge, c'è stata la Blue Whale Challenge, c'è stata la Samara Challenge, è proprio periodicamente io ho parlato di questi episodi, chi attraverso Instagram, chi attraverso Twitter, chi attraverso i social network, WhatsApp, tutti questi personaggi che compaiono così all'improvviso e dietro sembra che si possano nascondere dei personaggi particolari. E il meccanismo è sempre lo stesso, cioè cambia il nome ma l'approccio e l'attenzione che si dà è sempre lo stesso, qualcosa di misterioso e cattivo che induce i ragazzi a suicidarsi o a farsi del male, ecco, questo è. È sempre lo stesso. Ma io nel mio video dicevo che secondo me era un fenomeno virale creato dall'internet semplicemente per il piacere di ridere, scherzare. Ma dicevo anche alla fine, state attenti ragazzi, perché quando scherzate con account che esistono online non sapete mai e non potete mai sapere chi si nasconde dietro. Quindi come può partire dallo scherzo, può esserci anche l'elemento come quello che è successo al ragazzino di 11 anni. Vediamo. Purtroppo Gianmarco, se ho capito bene quello che vuoi dire, tu dici una volta che si è creato una grande alone emotivo attesa attorno a un personaggio che nasce con tutt'altre intenzioni o magari nasce per caso, qualcuno potrebbe usarlo perché come avere un'arma libera suggestiva e dire veramente io potrei domani Gianluca aprirmi un mio profilo Jonathan Galindo e andare a cercare i miei colleghi e spaventarli. Detto in maniera molto semplice, qualcuno potrebbe comunque usarlo, anche se in sé non esiste un Jonathan Galindo come volontà reale di indurre in giochi pericolosi i ragazzi, questo volevi dire? Certo, assolutamente, anche perché io dicevo nel mio video, raga, se vi succede una cosa del genere, se vedete qualche messaggio particolare da un Jonathan Galindo, chi che sia, vedeteci sopra e bloccate, finitela lì, non stateci dietro, però posso immaginare che un ragazzino di 11 anni possa rimanere comunque particolarmente impressionato da una cosa del genere. Anche perché sai, è difficile per gli adulti oggi definire il limite fra reale, immaginario, fittizio, buffonesco, criminale, rete, figurati un bambino di 11 anni. Mauro Manca, sul commento che ci ha fatto Gianmarco Zagato, che conosce meglio noi, frequenta il mondo dei ragazzi molto giovani che stanno in rete, cos'è da aggiungere? Che quello che su cui bisogna fare attenzione appunto è il proliferare di tutti i vari profili e messaggi che poi vengono trasmessi a livello di chat che inducono a fare altro, quindi esulano da quello del gioco, usano quell'immagine del momento, però poi dopo ci sono altri scopi. Nel momento in cui arriva qualcosa di diverso, che non è più l'immagine per fare paura, quindi l'immagine fine a se stessa, ma si attiva un'altra dinamica che porta a volte... C'è un'interazione, si attiva un'interazione, esatto, che qualcuno ti dice di fare delle cose e tu le fai... Esatto, quello che bisogna dire, lì bisogna fermarsi perché poi dopodiché non si sa chi c'è dietro. Se ci sono degli adescatori e dei manipolatori mentali, conoscono talmente bene le tecniche di manipolazione e strumentalizzazione che è difficile uscirne dopo. È difficile per un genitore capire questo perché non riescono a pensare come una persona attraverso il web possa indurre... Ci scrive un ascoltatore, l'ultima battuta, che mi sembra una domanda un po' oziosa. come mai un bambino di 11 anni aveva l'accesso ai social? Dove erano i genitori? No. Conosci bambini di 11 anni che non hanno accesso ai social? Io ho difficoltà a trovarli. Vorrei vedere se il figlio del signore ha mai scritto un messaggio al nonno. Anche scrivere un messaggio WhatsApp e usare un social media. Quindi evitiamo questo tipo di discorso di colpevolizzare un genitore, perché stare dietro un figlio in rete è veramente complesso, perché cambiano i meccanismi quotidianamente, per cui tante volte si vedono anche le cose ma non si hanno gli strumenti per capirlo, ma non ce li hanno i ragazzi stessi. Allora, io devo chiudere. Sì, devo chiuderti, ma Maura, se no la sigla ci porta via. Mi sembra che, se sintetizzo il tuo messaggio, genitori, studiate anche le cose che per voi non sembrano importanti, come quello che frequentano i vostri figli quando stanno sui social. Dovete essere voi i primi a saperlo, poi magari potete aiutarli a organizzarsi meglio anche la loro navigazione. Alla prossima. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.